adesso poi dopo, adesso fra un po' vado a dare a mangiare a Filippo, e così mi guardo Sky 24 a vedere lo sport cosa dice. Va bene, va bene, siamo stasera non è tardi nessuno, a voi ce la mettono in roba gente. Beh, insomma, siamo qua alle 10 e non entra nessuno, ma quando mai? Ma devo dire che non è entrato nessuno nemmeno sul 23, perché io ho anche l'altro acceso sul 23 e ogni tanto non guardo niente, anche se il volume è abbassato e ci ho messo un attimino, ci ho messo così, ma qua se entra qualcuno già lo sento. Se vai in macchina entra un nessuno, Sì, vabbè, saranno qua ad ascoltare come facevamo noi. Io stavo molto in ascolto sul canale 23. Capito? Adesso io ho dato l'input, sembra che stia andando bene. Come trascinatore, questo è il canale che io usavo e qua voglio rimanere. Se appunto c'è un altro questo da un'altra parte è perché vuol dire che è così. Si parla di altro da una parte e dall'altra e va bene tutto, non c'è nessun problema, nessun contratto, però se questo è stato fatto bisogna rispettarlo. Non puoi stare lì a parlare di cose che magari non interessano. KK, vabbè, Marco deve essere che si dura bettina. È andata a comprare il gelato alla ragazza, è andato, è per quello, adesso se lo stavano leccando assieme questo gelato, un amico da Edu e un amico da Edda, magari avrà avuto cose da fare o non ne ha voglia, e questi giorni era un pochino giù di conda, non lo sentivo brillante come è sempre stato, perlomeno ieri ad esempio non era in grande forma, non so se si sente male o cosa va, non lo so, si è preoccupato perché non deve saldare il PL, non rinuncia a saldare un PL, se deve farlo e basta, è utile, non ti puoi bloccare solo perché devi fare una saldatura al PL. Marco, ma ci sei di un giorno, sì o no? Aspetta, io che sono al telefono, un secondo solo. Ok.